Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchessi, oggi è il 30 di agosto e siete all'ascolto di Italia in controluce, la prima edizione di questo programma che va in onda ormai da quasi 2 anni, che racconta la cronaca, la politica, il costume, anche lo spettacolo italiano. Sono 2 edizioni, 6:30 e 13:30, è una redazione che realizza ogni giorno reportage ed inchieste. Fabio Treves. Ciao Daniele, il Puma di Lambrate. Il Puma di Lambrate a Radio 24, una macchina da guerra chiamato blues. Quando si parla di blues in Italia si parla di Fabio Treves, perché posso dire che è stato il primo a credere veramente a questa musica e a portarla da tutte le parti, in tutti i luoghi possibili e immaginabili, organizzando festival. Treves Blues Band, questo marchio che va avanti imperterrito da moltissimi anni, da quando? Sì, dal 1974, è ufficiale la data di nascita della Treves Blues Band, un gruppo di amici che credeva nei valori del blues, perché il blues, è sempre meglio ricordarlo, non è soltanto un genere musicale importante, un genere musicale senza il quale non ci sarebbero stati poi il jazz, il bebop, il rock and roll, il rhythm and blues, ma è anche, secondo me, secondo noi, un vero e proprio stile di vita, un modo per rivalutare e tramandare dei valori che sono dei valori bellissimi, come la solidarietà. Nel blues non c'è razzismo, non conta il colore della pelle, nel blues conta la passione. Blues al servizio di nobili cause e di nobili ideali. Quanti concerti ha fatto la Treves Blues Band a favore, no profit, tantissimi. E come spesso capita nella vita, quello che dai ti ritorna indietro. E a me sta tornando indietro con gli interessi, dopo quasi 40 anni di musica, mi sta tornando indietro con delle grandi soddisfazioni, con grande orgoglio, vedendo sempre più giovani ai concerti. E per un musicista degno di tal nome, penso che questo sia uno dei più bei riconoscimenti che esistano. Continuare a fare musica coinvolgendo la gente e facendo capire che dal blues non si inventa niente, e dal blues non si esce se non con questa passione che si tramanda ormai di generazione in generazione. Fabio Treves costruisce ponti, è una sorta di ingegnere musicale. Costruire ponti significa realizzare dei ponti tra generazioni diverse. E l'Italia è cambiata da quando ha iniziato nel lontano 74. E tu parlavi di giovani, di ragazzi. Oggi qual è la situazione musicale italiana? È cambiata? L'hai vista trasformarsi? È migliorata? Secondo me è migliorata grazie anche ai nuovi mezzi tecnologici, per cui ti permettono di conoscere quello che c'è stato nel passato. Non ci può essere un futuro anche nel blues se non si conoscono i grandi padri fondatori, i grandi cantori del blues, da Willie Dixon, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Elmore James, Robert Johnson, personaggi che hanno scritto delle pagine memorabili 70 anni fa e la cui musica viene ancora suonata oggi nelle varie rassegne e festival del blues. È cambiato, ci sono tante belle realtà di blues giovanili. E per me è un piacere poter anche presentare nei festival che mi vedono come ispiratore, organizzatore, direttore artistico, presentare delle giovani band che hanno attinto dal blues del passato. Nessuno parte con il blues se non dopo aver ascoltato i grandi musicisti del passato. Così ho fatto io quasi 40 anni fa, ascoltando John Mayall che riprendeva i classici del blues. Ma gli stessi Rolling Stones, Led Zeppelin, Who, Deep Purple hanno più di una volta detto che se non ci fosse stato il blues non ci sarebbero stati neanche i loro gruppi, le loro band. E questa è una cosa bella, perché vuol dire che il blues non andrà mai, mai, mai, non sarà mai di moda e quindi non andrà mai fuori moda. Non potrà mai diventare una slot machine. Mai, mai. Perché nel blues, se non hai il cuore, non hai la passione, se non ami il prossimo, se non torni con la memoria a quei musicisti che stavano 12 ore su un trattore sotto il caldo cocente del Mississippi per poter poi andare la sera a suonare la loro musica nei localacci sulla Route 66, non fai nessuna strada, non vai da nessuna parte. Devi avere grande rispetto e molta umiltà tornando indietro, tornando alle radici. E quindi la memoria per te è importante? la memoria nel blues, ma direi non solo nel blues, è la cosa che muove il mondo. Se non c'è la memoria, se non c'è la, se non c'è la, la conoscenza anche di quello che è capitato dall'altra parte del mondo, ma soprattutto a casa tua. E questo è quello che ha fatto grande il blues. I musicisti di New Orleans oggi non hanno dimenticato quello che succedeva 50 anni fa, i musicisti dell'Alabama non hanno dimenticato gli autobus che dicevano solo per i bianchi, e così come non hanno dimenticato i musicisti inglesi o i musicisti italiani come il sottoscritto, che il blues è stata la prima musica di grande aggregazione tra i giovani negli anni 70, parallelamente alla musica cosiddetta politica, che serviva da cassa di risonanza a determinati ideali, determinate scelte politiche. Il blues è quello che ha unito tanti tanti giovani alla fine degli anni 70. E io sono contento di essere ancora qua, vivo e vegeto a parlare. Direi di sì. Il Puma di Lambrate. Il Puma di Lambrate ha suonato con moltissimi musicisti, non soltanto italiani ma anche stranieri, e ha imparato a conoscere artisti di vario tipo, conosciuti, molto famosi e anche magari meno conosciuti. Raccontaci qualche cosa di quei incontri. Sono orgoglioso ai limiti della presunzione quasi di aver suonato sul palco per due volte con Frank Zappa, il genio di Baltimora, che è unanimemente riconosciuto come una delle grandi figure musicali del Novecento tutto, direi. Ma ho suonato anche con dei musicisti completamente sconosciuti che mi hanno fatto dei complimenti, mi hanno detto: tu suoni l'armonica non come uno che viene dall'altra parte, perché molti musicisti, quando gli dicevo Milano, Italy, storcevano la bocca, perché esiste un Milan nel Mississippi. e questo è un complimento, perché, ripeto, per suonare blues non conta il colore della pelle. Cioè, io ho incontrato dei musicisti giapponesi che suonano blues benissimo, e ho suonato anche nei posti dove in America organizzano i festival del blues. Ho suonato sulle rive del Mississippi a Memphis nel 92 e condividevo il camerino con dei mostri sacri del blues, e mi sono trovato come a casa mia. E questo è il grande insegnamento del blues. Nel blues veramente i sogni si possono avverare, e nel mio caso ce ne sono avverati tanti. E questi aneddoti che sto raccontando adesso a te alla radio sono quelli che poi racconto negli incontri, nelle scuole, nell'università, e la gente rimane abbastanza affascinata, perché, ripeto, il sogno e la storia del blues, il film del blues ancora non è finito, andrà sempre avanti. Ma le nuove generazioni che amano il blues e che amano più in generale la musica hanno spazi per poter suonare in Italia? Beh, ci sono persone che sono semplici, umili e amano il blues e trovano gli spazi. Quelli invece che credono che il blues sia una musica come tutte le altre, dove danno importanza al bello strumento, al bello amplificatore, al look, non hanno molta strada da fare, perché il blues prima del vestito conta la passione, conta il cuore e conta andare al cuore della gente. Tu poi suoni uno strumento, in particolare l'armonica, l'armonica a bocca, che è uno strumento che puoi utilizzare e puoi suonare in qualsiasi luogo possibile, immaginabile. E infatti è lo strumento principe, se lo portavano nelle tasche dei pantaloni da lavoro, perché si tirava fuori e nei momenti di pausa potevi esprimere tutto quello che ti passava per la mente, non potendo portare né l'amplificatore, né la chitarra, né il pianoforte, si mettevano lì e... Oh Lord have mercy! Oh Lord have mercy! Boom. Perché poi c'era lo strumento di lavoro che batteva il tempo. Spesso erano degli spaccatori di pietre con delle palle di piombo legate ai piedi, perché erano detenuti in alcuni penitenziari proprio duri. A volte erano semplici braccianti, però la storia del blues è la storia più bella di un popolo e delle loro culture. E per quello che il blues è e rappresenta la musica popolare in generale, la musica dei nativi d'America, le tante ingiustizie e porcherie che hanno dovuto subire. E tutto questo bagaglio di sofferenza, di speranza, ma anche di lotta, di voglia di non omologarsi mai, nel blues esce fuori. E non c'è altra musica che esprima queste cose. Italia in controluce era la prima edizione, siamo rintracciabili su Facebook, alla pagina e al gruppo, su Twitter siamo anche rintracciabili via mail all'indirizzo controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con un'inchiesta di Raffaella Calandra sulle tangenti a Sesto San Giovanni.